Come vi avevamo anticipato ai nostri microfoni, abbiamo il contrabbassista della nuova band Donkey Joe, Federico Gueci Garbo. Ciao Fede! Ciao, come va? Eccomi qui, sono arrivato. Allora, partiamo subito dalla prima domanda. Visto che appunto siete appena nati, cioè un quartetto nato quest'anno, raccontaci un po' come è successo, qual è stata l'idea originale per formare questa nuova band. Noi, io e il batterista Simone Sterruzzo, che avete ascoltato nella registrazione, suoniamo insieme già da parecchio tempo. La registrazione che avete sentito, ci tengo a precisare che è con Davide Angelica alla chitarra e Filippo Refici al sassofono. Purtroppo non saranno con noi domani. Okay. Ho scelto questo brano perché è una mia composizione che suoneremo comunque domani, venerdì al binario. Scusatemi, non domani, venerdì. E insomma, ve lo racconto perché appunto io e Simone collaboriamo da tanto tempo. Come avete visto, già l'anno scorso suonavamo musica inedita e quest'anno abbiamo deciso, dopo un periodo di pausa dovuto purtroppo a un problema di salute, di riprendere un gruppo collettivo in cui si compone tutti e quattro, ciascuno porta la sua composizione in sala prove, diciamo, e poi collettivamente si arrangia il tutto, e quindi nasce da un'idea di condivisione del repertorio e delle idee comunque. Per quanto riguarda invece la musica, che sonorità proponete, toccate? Allora, avendo la chitarra elettrica, diciamo che siamo molto ammiccanti sul rock e le sonorità anche un po' più acide. Si sentono, diciamo, molti momenti di chitarre un po' alla Radiohead o al King Crimson. Ci piacciono, diciamo, delle sonorità abbastanza dure rispetto magari al jazz più tradizionale. Però non mancano anche momenti in cui, avendo il clarinetto, il contrabbasso, l'arco, eccetera, eccetera, spaziamo anche su delle atmosfere molto più soft. E quindi voi fate dei brani originali, giusto? Se soltanto brani originali. Ok, chi e come li componete? Allora, li componiamo tutti. Infatti si sentirà, abbiamo almeno un brano a testa nel repertorio, poi c'è chi ne ha qualcuno in più, qualcuno in meno. Ed è anche la parte più interessante, perché comunque abbiamo quattro stili non troppo diversi tra loro, ma comunque si sente di chi è la penna, diciamo, mentre suoniamo. Anche perché abbiamo strumenti diversi, quindi magari le composizioni si incentrano anche su aspetti differenti musicalmente, no? C'è il brano un po' più ritmico, il brano più melodico, che magari lo può scrivere chi suona il tema. Diciamo che scriviamo singolarmente, ognuno a casa, diciamo. Non siamo insieme nel momento in cui si crea, anche se è qualcosa in cui speriamo di fare un lavoro anche in quella direzione. Si porta in sala prove un brano, magari non è perfettamente concluso, non c'è un'idea ben precisa di come suonarlo, e quella si trova insieme. Certo, ma questo di venerdì è il vostro primo concerto? No, è il secondo, in realtà è il secondo. Abbiamo suonato giusto ieri sera a Firenze. Ok, com'è andata? Anche se ciascuno di noi... Benissimo, ecco. Benissimo, è andata veramente una bomba, soltanto che non sono riuscito a riprendere il concerto perché la mia GoPro ha deciso di non funzionare. Peccato. Quindi non c'è nessuna prova, purtroppo, dovrei fidarti di me. Vabbè, noi comunque lo vedremo venerdì. Quindi sì, dai, sì, per quanto noi suoniamo tutti insieme in altre formazioni comunque, quindi è un gruppo di gente che si conosce tanto, ma non avevamo mai suonato in questa combinazione precisa. Ecco, in queste vesti avete già pubblicato qualcosa o avete dei progetti futuri? Sì, contiamo di registrare, anche perché devo dire che è stato un gruppo molto veloce nel trovarsi, nel costruire il repertorio. L'abbiamo fatto con poco sforzo, quindi speriamo di registrare quanto prima. Si spera magari prima dell'estate, in modo che poi in autunno saremo già pronti per girare con una registrazione in mano. Certo, allora Federico, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato grazie con noi ai nostri microfoni, e invitiamo tutte grazie le ascoltatrici e gli ascoltatori al concerto che si terrà venerdì sera al binario. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, grazie. Federico.